stabili con voti e amicizie, notizie. Gira la ruota, gira per tutti, chi è dentro vince, chi fuori perde. Chi perde il tempo che trova sciocchezze virtuali di poco conto. Tristamente depilati, e maggior parte depilati, tossicomanidi depilati. Ecco perché sempre